Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Il comandante ha sospirato, poi si è appoggiato allo schienale. Mi ha detto che avevano avvertito il mio vicino, che stava bene. E mentre lo diceva scandiva le parole, una ad una, come se io fossi sordo, invece che pazzo. Poi ha proseguito dicendo che non avevo fatto del male a nessuno, ma avrebbero dovuto avvisare il mio medico. Poi si è alzato, mi ha stretto la mano e mi ha detto di andare a casa di riposare, che non era successo niente. Mi chiamo Daniele Ravasi, ho 32 anni, vivo a Milano e ho una bellissima compagna, ma non sono ancora sposato. Dal momento che da quel racconto si evince in qualche modo un'immagine poco edificante di un'istituzione, allora credo che ci sia qualcosa che non va, perché nel caso specifico quello non è un pezzo di realtà, ma sono anche convinto della buona fede dei tuoi collaboratori e della tua, molto meno di quella del signor Carlo, il quale peraltro credo sia in qualche modo un ammiratore simpatizzante del mondo militare. Questo è un pezzo di uno scambio che è avvenuto sul profilo Facebook del programma, che è Matteo Caccia, io sono qui, tra me e una persona che ascolta questo programma, ed era uno scambio che riguardava una puntata andata in onda della settimana scorsa, in cui si parlava di un episodio avvenuto durante, credo, una formazione, un periodo di formazione di vita militare. Era un episodio abbastanza cruento, avevamo deciso di raccontarlo perché era un pezzo di una storia. Molti hanno scritto: ma perché avete letto quella storia? Era un po', faceva impressione, un po' anche mia mamma mi ha chiamato: ma che brutta, quei poveri vitelli? Ma di chi erano quei vitelli? Mi ha scritto: ma che so di chi erano quei vitelli? Insomma, ha creato un po' di scalpore. Credo che questa roba succederà un po' di più rispetto all'anno scorso in questo programma, perché appunto noi pigliamo le storie che ci arrivano, facciamo in modo di capire che siano vere, che siano dei veri pezzi di realtà, e poi le mandiamo in onda. Oggi è un po' quel caso lì. Oggi è la storia di Daniele, che parla di un argomento molto delicato, che ha a che fare con la pazzia. Vabbè, forse non è molto corretto, però è più semplice chiamarla pazzia. Racconta proprio quello, racconta del momento in cui lui ha capito che la mente gli aveva fatto uno scherzo. 349-238-6666, oppure voi siete qui, @radio24.it. Tra poco vi leggerò il suo racconto, che è una storia toccante, molto delicata e molto particolare. Però in assoluto oggi quello è l'argomento di questa puntata. Quei momenti in cui in qualche modo la nostra mente ci fa uno scherzo e quindi ci fa ricordare cose che non c'erano o ci fa dimenticare cose che invece sono accadute. Vi faccio un esempio, me l'ha scritto Antonella sul profilo Facebook. Un evento il cui ricordo ancora mi impressiona. Una ventina di anni fa, un mio zio morì dopo un incidente con il motorino. Come si può immaginare, la disgrazia improvvisa aveva gettato la famiglia nello sconforto. Tutti tranne il mio papà, che appariva stranamente tranquillo e immerso nelle sue cose. Il mattino dopo, se non addirittura due giorni dopo, non ricordo bene, non riusciva a capire perché tutti fossimo così sconvolti, e quando realizzò quello che era successo, la sua reazione fu doppiamente straziante. La mente trova davvero dei modi singolari per difendersi. Questo è uno, ma poi è arrivato un altro, di Fabio. Prima di cominciare col racconto di Daniele, eccolo qua. La cosa più strana che mi ha combinato la mente mi ha reso lo zimbello della famiglia per tutta un'infanzia. Mi ha creato un ricordo stranissimo. Se non fosse che lo ha creato così nitido, che io ho sempre difeso e raccontato come vero quel ricordo. Ed era di avere visto dentro un canale, dove andavo al mare da piccolo, un'ape gigante, tipo un'ape regina da film, affogata sott'acqua. Ecco, tutto ciò ora capisco non avesse senso, ma all'epoca, e avevo 6 anni, e quel ricordo la mia mente lo aveva creato così nitido che ero quasi più vero di molte cose che vere lo sono. 349-238-6666, piccoli e grandi scherzi della mente. Quello che è successo a Daniele, più che piccolo, è stato abbastanza importante. Sono diventato pazzo il 28 agosto 1999, mentre parcheggiavo l'auto. Avevo da poco compiuto 20 anni. E mai avrei pensato potesse succedermi una cosa del genere. È stato mentre facevo manovra, mentre guardavo indietro per non colpire l'auto in sosta. È stata una specie di piccola scossa alla base del cranio. È stato un attimo, solo una sensazione, ma da allora niente è più tornato com'era. La gente stereotipizza la pazzia. Pensa ai matti di paese, quelli che vaneggiano, gesticolano al vento, e vanno in giro vestiti di stracci, fumando una sigaretta dopo l'altra. La verità non è questa, la verità è molto più complessa. Per spiegarla io uso sempre un esempio, che è l'esempio della valigia. Fate così, prendete una valigia, infilateci le vostre cose con cura, piegate bene, poi chiudetela e scaraventatela giù per le scale. Non serve aprirla per sapere che all'interno le cose si sono sparpagliate e le più fragili quasi certamente si sono rotte. Non c'è bisogno di vedere, anche perché non si può vedere. Ecco, per me la pazzia è questa. Non ho bisogno di vedere il dopo barba che cola fuori dalle cuciture della valigia. Io vivo una vita apparentemente normale. Faccio molte più cose di quante se ne possano pensare, eppure mi è impossibile farne altre che possano apparire ovvie. Io semplicemente confondo. Confondo la realtà con il sogno, quello che immagino con quello che realmente è. E alla fine non so più se sono io a guidare o a essere guidato. È come se la mia vita diventasse un'immagine raccontata da qualcun altro e nulla mi appartenesse più. È inutile spiegare di come si perdono il lavoro, le amicizie, di come si sia la causa della distruzione di tutti gli affetti attorno a noi, di come in un piccolo paese come il mio parlino di te anche gli sconosciuti e di come questo per me renda tutto ancora più difficile. E poi le cure, il dolore, e non sai come, ma alla fine ti abitui a vivere anche così. Me lo ricordo come una situazione assolutamente normale, in cui uno sta facendo una cosa assolutamente banale come parcheggiare l'automobile e avverte che qualcosa dentro di lui sta cambiando. Potrebbe succedere a chiunque, chi è al supermercato, chi sta prendendo un caffè al bar, eccetera. Il comandante dei carabinieri stava seduto dall'altra parte della scrivania. Dietro di lui la parete gialla e scrostata degli uffici pubblici. Nell'aria tanfo di umidità e carta. Teneva le braccia stese lungo il piano, le mani giunte e la testa incassata, come uno studente che ascolta assorto. Mi guardava con compassione. Aveva avuto neanche 50 anni. Era un uomo buono, che cercava di fare solo il suo lavoro. A un certo punto è entrato un altro carabiniere, giovane. Ha incrociato per un attimo il mio sguardo e lui l'ha subito distolto. È incredibile come un uomo come me, abbondante nel fisico, affaticato dalla festiva, possa intimorire un giovane addestrato e armato. Ma la pazzia fa anche questo. È come il timore di un contagio. Il giovane carabiniere ha dato un foglio al comandante, poi è uscito. Il comandante ha sospirato, si è appoggiato allo schienale. Mi ha detto che avevano avvertito il mio vicino, che stava bene, e scandiva le parole una ad una, come se io fossi sordo invece che pazzo. Ha proseguito dicendo che non avevo fatto del male a nessuno, ma che avrebbero dovuto avvertire il mio medico. Poi si è alzato, mi ha stretto la mano e mi ha detto di andare a casa a riposare, che non era successo niente. Sono uscito dal commissariato e sono tornato a casa, nella città che era ancora addormentata. Questa situazione difficile, tra virgolette imbarazzante, perché ero lì con, appunto, con il comandante che mi stava parlando, sapendo io di essere, diciamo, tra virgolette in torto, perché lì non dovevo esserci, e comunque anche di tranquillità, perché comunque non la vivevo come un'altra delle tante cose, quindi sapevo che di lì a poco sarei tornato di nuovo a casa, eccetera. Avevo sognato di essere ucciso dal mio vicino e per impedirglielo ero entrato in casa sua, lo avevo soffocato nel suo letto e poi ero andato a costituirmi, ma a quanto pare era tutto un sogno. Quello che non ho detto al comandante però è che io sono davvero entrato in casa del mio vicino. Non l'ho sognato, solo che di fronte al suo letto ho realizzato dov'ero. E per un attimo mi sono ritrovato, mi sono sentito di nuovo sano, solo che poi i giorni seguenti l'ho sognato ancora. La verità è questa, è che io sono entrato in casa del mio vicino per diverse settimane e ancora lo faccio. È solo che di fronte al suo letto ritrovo la lucidità che non incontravo più da un sacco di tempo. Ora però ho paura di poter andare oltre, è per questo che ho tentato di costituirmi. Il mio vicino ora sa la verità, e la verità è che io ho bisogno di aiuto. Just give me some truth now. I've had enough of watching scenes with schizophrenic, egocentric, paranoid prima donnas. All I want is the truth now. Just give me some truth. No short head, yellow belly, son of tricky dick is gonna mother of the top. So me, we're just a pocket full of soul. It's money. visto un documentario una volta. Si chiamava Maschio Bianco Sconosciuto. Era un documentario che raccontava la storia di un tizio di quasi 40 anni, mi pare 36-37. Era un bel ragazzo, aveva gli occhi chiari e la faccia magra. Il documentario raccontava di come lui, un giorno, si fosse svegliato sulla metropolitana e non sapesse che cosa ci faceva lì, dove stava andando e soprattutto chi fosse. La sua mente gli aveva fatto un piccolo scherzo e gli aveva cancellato tutti i ricordi. Col tempo scoprì che faceva il fotografo, ma era un ex trader di borsa. Scoprì che viveva a New York, ma era originario di Londra, dove aveva degli amici che non riconosceva più. E scoprì anche di avere un padre, che non sapeva chi fosse, che viveva in Spagna. A distanza da 2 anni, da quel giorno in cui si era svegliato in metropolitana, lui stava bene, continuava a scattare foto e aveva una fidanzata bella e innamorata, però continuava a non ricordare nulla. Ecco, ricordo quel documentario perché era una storia talmente ben costruita che sembrava finta. Per qualche tempo ho fatto ricerche su di lui e ho scoperto che si chiamava Doug Bruce, che era una persona reale, solo che dopo il film se ne erano perse le tracce. Io mi c'ero incaponito con questa storia, volevo capire se era successa veramente oppure no, cioè se una cosa del genere era possibile. Era come se la mia mente si fosse fissata solo su quell'unico punto di interesse, e cioè era vero oppure no. Poi un giorno ho smesso di farlo. Ho iniziato a pensare che non fosse così importante. Anzi no, non l'ho pensato, in realtà semplicemente quella cosa ha smesso di interessarmi. Mi sono comprato il DVD del film e l'ho rivisto. E me lo sono goduto con molto più di prima. Mentre lo guardavo riflettevo sul fatto che quando vado al cinema e vado a vedere Batman, ad esempio, no? Soprattutto gli ultimi, quelli girati da Christopher Nolan, io mi siedo in sala e mi preparo per godermi lo spettacolo, no? Non mi preoccupo del fatto che Christian Bale sia un ricco magnate che di notte se ne va in giro vestito da pipistrello e castiga i delinquenti. Infatti non si chiama più nemmeno Christian Bale, si chiama Bruce Wayne. Ecco, è stato guardando quel documentario che io ho iniziato a interessarmi a tutti i piccoli trucchi che la mente ci gioca ogni tanto. Ho anche cominciato a interessarmi all'illusionismo, che è la quintessenza dell'inganno. Che è un inganno talmente ben fatto che la nostra mente, anche se da una parte cerca disperatamente un trucco, dall'altra vuole abbandonarsi e lasciarsi ingannare. Ecco, è stato in quel periodo che ho scritto una cosa che si chiamava amnesia. Ogni giorno noi viviamo stati di inganno, nella percezione della realtà. Non ci accorgiamo di cose che sono evidenti e ne creiamo altre che non esistono. Ad esempio, non ci rendiamo conto che la nostra compagna non ci ama più, magari, perché ci farebbe troppo male. O che stiamo invecchiando, perché ci sembra impossibile essere diversi ogni giorno un po' di più. In alcuni casi addirittura ci creiamo delle immagini del passato che non esistono, dei falsi ricordi che ci permettono di godere di una realtà che non abbiamo mai vissuto. Siamo affascinati dai disegni di Escher, avete presente quelli con le scale che si incrociano, no? Che salgono e scendono senza soluzione di continuità. Siamo affascinati dalle illusioni ottiche in generale, perché danno un po' di tregua alla lucidità che pervade la nostra vita. Ecco, a questo punto vi confesso che non so nemmeno se la storia che ha raccontato Daniele, quella che riguarda la sua follia, sia tutta vera oppure no. Però anche se questo è un programma che racconta piccole storie vere di persone normali, la sua storia mi ha affascinato perché mentre la leggevo mi sono accorto che la sua realtà si stava mischiando con la mia e che la sua follia era una piccola speranza della mia realtà e che se la finzione non si mischiasse continuamente con la realtà, la vita sarebbe molto meno interessante. Stelle, stelle tutte d'intorno che cadono sempre di più. Solo andata senza ritorno, io ci penso un po' su. E ho fatto clic, clic, clic, clic, clic, ho fatto clic. E in un attimo tutto si è spento. Ho fatto clic, clic, clic, clic, clic, ho fatto clic. Scusi lei, dove va? Non lo so, ma au revoir. Oh, oh, oh. Quando abbiamo pensato a questo programma qua, insieme a tutta la redazione, compresi tutti quelli che sono di là in questo momento, uno dei vincoli fondamentali che ci siamo detti era: le storie devono essere vere. Cioè, abbiamo bisogno di episodi, piccoli episodi di vita che raccontino però qualcosa che è realmente successo alle persone che le raccontano. E poi è arrivato questo racconto, il racconto che vi ho letto poco fa. È una storia che... il racconto è un racconto bellissimo e ci ha colpito subito perché era molto bello. La storia era una storia particolare ed era una storia che era veramente ai confini tra sarà vero o forse no. Io non lo so se è vera o forse no e non so nemmeno se glielo voglio chiedere a Daniele, però Daniele comunque è al telefono. Pronto Daniele? Pronto, ciao. Ciao, come stai? Abbastanza bene, grazie, voi? Beh, noi, io bene, mi dai del voi o chiedi di tutta la redazione? Di tutta la redazione. Stiamo tutti benissimo. Senti Daniele, io avevo deciso di non chiedertela, però un pochettino te lo chiedo. Guarda, non ti chiederò se questa storia è solo vera oppure no. Quanto c'è di vero e quanto no? Un po' come in tutte le storie, c'è molto di vero e molto di... plausibile. Senti, allora facciamo così. Tu a un certo punto dici, ed è una frase che mi è rimasta impressa, dici la gente stereotipizza la pazzia, no? Per cui immediatamente quando pensiamo alla pazzia, è una cosa che succede a tutti, pure a me, pensi a, appunto ai matti del paese, no? Quelli che tutti additano come il matto del paese, che parla da sola, magari vestito male, magari ha un odore sgradevole. Però tu dici, la verità è molto più complessa. Visto che parliamo di verità e di finzione, qual è la verità? La verità, non so come risponderti a questa domanda. La verità sta in mezzo a quello che ho detto. Però, scusami, se dicevamo che la gente stereotipizza la pazzia, raccontami almeno la tua di verità. Cioè, che cosa vuol dire non essere considerati normali? Ma ci si chiede sempre, si usa sempre dire che tutti sono un po' matti, eccetera. Io a questo credo, ma credo fino ad un certo punto, nel senso che tutti siamo profondamente diversi e non c'è un limite per dire chi è normale e chi supera questo limite, quindi non è più normale. Tuttavia chi non è davvero normale passa abbondantemente questo limite e quindi viene visto come i matti di paese, come chi vaneggia, eccetera. In realtà, prima di quel punto, che è quello che noi con gli occhi vediamo, c'è molto, molto di più per arrivare lì. Daniele, che i matti sono in mezzo a noi, in qualche modo. Tu mi hai detto quanti anni hai, scusami? Ne ho 32. 32, che lavoro fai? Faccio le consegne, guido un furgone, faccio le consegne. Cioè, sei un corriere? Un corriere espresso. Quindi, esattamente un corriere. Com'è la tua giornata? La mia giornata è svegliarsi il mattino, fare ora le mie consegne e poi tornare ai fatti miei tra qualche ora. Scusami, quindi a che ora ti svegli la mattina? La mattina ho la fortuna di svegliarmi anche non troppo presto, riesco a svegliarmi alle 8 del mattino. E finisci a che ora? E finisco verso le 6:30. E tu hai una famiglia, una compagna, una moglie, dei figli? Ho una compagna ma non ho figli. Dov'è che abiti, Daniele? Abito a Milano. Senti, e alla domanda come stai, cosa rispondi? Solitamente alla gente rispondo sempre che sto bene o che sto abbastanza bene. Ok, allora prendo buona come risposta questa qua. Senti, ti ringrazio molto per la telefonata, per le chiacchiere e per il tuo racconto. Ti auguro buona fortuna. Grazie. Ciao, grazie a te. Buon lavoro. Ciao, ciao, ciao, ciao. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. La foto di Daniele di oggi è in bianco e nero. Ma non è in bianco e nero. Ah no, viola, l'hai stampata tu in bianco. Ah, perché a colori si inceppa la stampante. La foto quindi è a colori. E sul sito è a colori, giusto? Alla pagina di Radio 24. Sulla pagina, perdonatemi, di Voi siete qui. Daniele non sta guardando nell'obiettivo. Ha i capelli dritti in testa, ha la barba incolta col pizzetto un po' più lungo. Si vede, c'ha 32 anni. Ha su una maglietta bianca con scritto di fronte QT8, credo, che è un quartiere di Milano. E alle sue spalle invece c'è un ombrellone con sopra scritto Radio Birichina. 349-238-6666. Dennis da Padova mi scrive: io sono sempre in giro per le strade d'Italia con il furgone e mi è successo che ho fatto un tratto di autostrada e mi sono accorto di aver percorso 50 km in modo catatonico. Mi sono fermato con le gambe che tremavano alla sensazione di stordimento che avevo provato. Pensa a Dennis, quelli che ti hanno incrociato per quei 50 km senza nemmeno saperlo. 349-238-6666. Avete presente un libro che si chiama L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello? È un libro che è scritto iscritto da un neurologo americano che si chiama Oliver Sacks, che ha messo per iscritto le cose che lui ha visto e attraverso cui è passato durante la sua carriera clinica. È quello che ha scritto Risvegli, avrete visto probabilmente il film. Questo invece sono una raccolta di racconti suoi, più che altro sono appunti personali, di pazienti che ha incontrato e che avevano questo tipo di problemi. Problemi per cui la testa a un certo punto gli aveva fatto click. E il primo racconto, proprio le prime righe del primo racconto, sono quelle che si intitolano esattamente L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello. Il dottor P era un eminente musicista, che per parecchi anni godette di notorietà come cantante e in seguito come insegnante alla scuola locale di musica. Fu qui che per la prima volta, nei suoi rapporti con gli allievi, si manifestarono strani problemi. Talvolta, quando si presentava uno studente, il dottor P non lo riconosceva, o più precisamente non riconosceva la sua faccia. Appena lo studente parlava, poi lo riconosceva dalla voce. Ecco, simili incidenti si moltiplicarono, causando imbarazzo, perplessità, paura e a volte situazioni comiche. Perché al dottor P capitava sempre più spesso non solo di non vedere le facce, ma anche di vederle laddove non c'erano. Per strada, ad esempio, come il buon Magù. Per strada gli capitava di dare affettuosi colpetti agli idranti o ai parchimetri, scambiandoli per teste di bambini. Rivolgeva gentilmente la parola ai pomelli dei mobili e si stupiva di non ricevere risposta. In un primo tempo, questi curiosi abbagli passavano per scherzi ed erano accolti con una risata anche da parte dello stesso dottor P. D'altra parte, non aveva forse sempre avuto uno strambo senso dell'umorismo e amato paradossi e burle di gusto zen? Tornata finalmente a palesarsi sul profilo Facebook del programma la nostra Elisa Frighetto, non so se la ricordate, quella del lungo inverno di Saffron, o giusto? O il buio inverno di Saffron. Quando ero ragazzina mi piaceva pensare di... scusate, quando ero perché riguarda sempre quando si... ce ne sono arrivati altri messaggi che parlano di quanto da bambini si avevano delle paure irrazionali però orribili. Quando ero bambina mi piaceva pensare di essere stata adottata, però di solito era il contrario, che si aveva paura di essere stati adottati, magari di essere in realtà discendente di qualche famiglia importante e che i miei veri genitori sarebbero venuti a prendermi, a cercarmi e a portarmi via. Beh, sono ancora qui che aspetto, mamma e papà, fatevi avanti. E invece poi Davide ne ha scritto un'altra che appunto è più vicina alle paure normali dei bambini. Avevo 7-8 anni e i miei genitori fanno un giro in auto insieme a me per prendere il gelato, ma non so perché, mentre stiamo andando a prendere il gelato, io mi convinco che in realtà stanno accingendosi ad abbandonarmi a un'altra famiglia sconosciuta senza nessun motivo. Durante il viaggio cerco di far cambiare direzione e di cogliere dei segni strani, occhiate, che confermino il mio timore. In quel paese mi prendono il solito gelato e la mangio velocemente su una panchina. Poi di corsa in auto, seduto dietro, in scena un perfetto mal di pancia per tornare immediatamente a casa. E poco dopo in camera mia con una limonata calda. Festeggio la mia salvezza. Voi siete qui, @radio24.it, per mandare i vostri racconti. Per scaricare i podcast invece c'è il sito di Radio 24 o altrimenti vi abbonate ad iTunes e quella roba ve lo scarica automaticamente le ultime 5 puntate. La storia di oggi è finita ed era quella di Daniele, parlava di follia. La storia di domani invece è la storia di Alessandra e parla della voglia di diventare madre. Ricordo che era una domenica mattina, una domenica di inizio primavera, e ricordo che a Roma c'era la maratona. Me ne accorsi quando mio marito fu costretto a lasciarmi 200 metri all'ingresso della metropolitana anziché a due passi. Il centro, lungo il percorso di gara, era stato completamente transennato. Senza guardarlo troppo lo salutai con un vago «Ci sentiamo stasera, appena mi assegnano un posto a letto ti chiamo». La mia meta era Milano, precisamente un ospedale, dove ero ormai di casa da alcuni anni. Era una familiarità che continuava a non piacermi, ma questa era stata la mia scelta. Se volevo avere una chance di diventare mamma, le strade erano due. Un ospedale pubblico lombardo, oppure un paio di cliniche della capitale, inaccessibili alle mie tasche.